Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, buongiorno. Paradigmi e proverbi, libertà precotte e salate, speranze delusi e difficili previsioni, autobiografie e diari, questi sono gli argomenti del giorno.